Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Perché l'unica verità che conoscete è quella che ricevete alla TV. Attualmente c'è da noi un'intera generazione che non ha mai saputo niente che non fosse trasmesso alla TV. La TV è la loro Bibbia, la suprema rivelazione. La TV può creare, può distruggere presidenti, papi, primi ministri. La TV è la più spaventosa, maledettissima forza di questo mondo senza Dio. E poveri noi se cadesse nelle mani degli uomini sbagliati. Sì, vabbè, questa era la profezia di Quinto Potere. Ci siamo su questi costruiti universi immaginari, sul potere devastante della televisione, su quanto potesse la televisione, su questa sorta di tabernacolo familiare da cui veniva tutto il reale mondo dei riferimenti, dei valori, degli stili di vita. Però i dati reali sono tutt'altro. Lo leggo oggi in una inchiesta su dati che però già cominciavano a essere trapelati da qualche tempo su R2 di Repubblica. Dal 2010, l'anno del passaggio al digitale, i televisori, gli oggetti televisori acquistati agli italiani sono diminuiti di 3 milioni. Un po' perché c'è la crisi, che in fondo non capiamo perché dobbiamo cambiare continuamente il nostro televisore quando quello di 4-5 anni fa funziona egregiamente, non sarà dell'ultimo modello, non sarà di quelli a forma concava che ci danno un'esperienza avvolgente, ma si vede benissimo, è un perfetto, meraviglioso televisore gigantesco che comprai penso 4 anni fa, ancora lo trovo perfetto, si vede benissimo anche in HD. Si comprano meno televisori, però evidentemente qualcosa sta cambiando anche nelle abitudini quotidiane. Non è più come era dagli anni, dal 54 in poi, improvvisamente aperta questa sorta di luogo di curiosità e di attenzione e catalizzatore di tutta la famiglia. Aspettate un attimo, chiudo la porta, nessuno me la chiude. Ecco, è necessario, è rimasta la porta aperta allo studio, qualcuno potrebbe anche pensarci. Ecco, dicevo, non c'è questa sorta di oggetto catalizzatore nelle famiglie, ma c'è qualcos'altro. Quello che vorrei questa mattina parlare con i miei ascoltatori, confrontarmi con loro, analizzando questo fatto che si comprano sempre meno televisori, viene sempre meno l'idea o la tentazione di comprarsi un televisore, di regalare un televisore. Non si progettano più le case pensando questo è il luogo dove si mette la televisione. Una volta, quando le case venivano fatte e con attenzione si andava nel progettare gli ambienti comuni di soggiorno, di vita comune, dice qua mettiamo la televisore, poi qui facciamo la tavernetta dove mettiamo un altro televisore, qui mettiamo il televisore per i ragazzi e ci mettiamo tutti gli accessori, li mettiamo qui davanti con i cartoni animati. Questo non accade più. Il televisore diventa nomade, transumante, passa di stanza in stanza. I primi motivi di agio erano quando si metteva un televisore in ogni stanza, ci sono due televisori, hanno messo un televisore in camera da letto, improvvisamente si aprivano degli scenari inimmaginabili su quanto sarebbero mutate le abitudini coniugali di quella famiglia in cui in camera da letto c'era il televisore. Se guardate delle commediole italiane degli anni 70-80, c'erano questa sorta di inchieste che si facevano, si andava nelle campagne e si domandava al villico senza denti con la sua rude compagna accanto, diceva come fate voi senza televisione? Quelli ridacchiavano, aprivano la porta di casa, uscivano 50 ragazzini, perché il coito celebrato e coniugalmente tollerato era l'unica alternativa al televisore. Il televisore toglieva virulenza negli abbracci notturni. Beh, oggi come la pensate? 800 24 00 24, come occupate il tempo che prima occupavate davanti al televisore? Venirtene fuori a dirmi, ascolta, io sono scandaloso. Con me non la fai più. Ah, non c'è nessunissimo problema, sì, ti fa comodo questo, credi pure. No, che ti fa comodo a te, ti fa comodo dire che per Daniela allora, te ne vai qua. Tu vai su internet, appena esce la foto del tuo miglior amico, che tu dici che è il tuo miglior amico, sì, puoi stare qua a corteggiare un turista di questo tipo, corteggia lui, ma non stai. Ma chi corteggio io? Ma cosa stai? Ma sei un pupazzo, sei un pupazzo! Cominciamo a vedere nello specifico cosa è cambiato. Beh, innanzitutto è cambiato che al di là delle polemiche attuali sul pagamento del canone, sul canone che va pagato anche se non si ha un televisore in casa, perché sono infinite le forme attraverso cui noi guardiamo lo spettacolo televisivo, com'è cambiato oggi la fruizione di quella che una volta era il guardare la televisione, il mettersi in orari definiti, in orari omologati, orari ormai uguali tradizionalmente per tutti, in cui la famiglia aveva questa sorta di spartiacque tra il mondo degli adulti e il mondo dei ragazzi, che erano le 20 di sera. Si guardava Carosello, i ragazzini andavano a letto, i genitori guardavano la televisione, sa che botta di vita, si guardavano dei fantastici sceneggiati che oggi entrano nella nostra mitologia, perché non abbiamo più memoria, guardateli oggi, erano terribili, con piani sequenza che duravano tre quarti d'ora, con inquadrature orripilanti, con dei mezzi che oggi, rispetto alla velocità di montaggio e di ripresa e di molteplicità di punti di vista dei telefilm americani, fanno addormentare dopo 10 minuti. Eppure allora quello era il grande spettacolo domestico, era il luogo magico attraverso cui la famiglia ritrovava o perlomeno consolidava la sua fittizia unità. Di fronte al televisore, naturalmente, la famiglia ritrovava la sua compattezza. E forse che oggi lo scomparire dell'oggetto televisore si sta quintessenziando, sta scomparendo, tra un po' rimarrà la sua crisalide. Guarderemo il televisore soltanto nel nostro smartphone, nel nostro tablet, nello stesso strumento, oggetto attraverso cui noi lavoriamo, e quindi sarà un tutt'uno il lavoro e la ricreazione dal lavoro stesso. 800 24 00 24, che fate adesso che non guardate più la televisione? Giovanni, buongiorno. Ciao, complimenti per la trasmissione, sei fantastico. Sì, certo, come no, soprattutto come giornate come questa in cui non sappiamo che dire, quindi confezioniamo il nulla. Vabbè. No, questa è Repubblica, ha fatto due pagine, un giornale serio, qualcosa già avevamo capito. I televisori, per quanto ce li mostrino nel loro fantasplendore, ho visto televisori che costano decine di migliaia di euro, grandi come il doppio della parete di casa mia. Non so chi se li comprerà, a parte qualche miliardario fantamafioso, ma come sta cambiando la vita della famiglia media italiana ora che il televisore viene messo in cantina? Guarda, io non ho nulla contro la televisione in quanto periferica, in quanto schermo, io la prenderei volentierissimo, una televisione grande, bella, luminosa, ce ne abbiamo una da 40 pollici, io ne vorrei una da 50, però non abbiamo attaccato più l'antenna. Ma quanta abbiamo... profondità avete? Perché 50 pollici bisogna stare lontani almeno 3-4 metri, dico. Sì, me l'hanno detto all'Unieuro, però io... Dovete sfondare la casa del vicino accanto e dire facci entrare, dobbiamo guardare la televisione. Sì, una cosa del genere, ma io sono, a me piace avere lo schermo grande. No, no, anche io sono maniaco di quello, non è mai troppo grosso, quello è vero. Comunque, no, noi abbiamo attaccato il computer e la Xbox e la Wii e non abbiamo attaccato né Sky né l'antenna, perché io 6 anni che non guardo più la TV, ma salvo quando vado. Ma la sera che fai? Ci sono delle serate sfigate in cui ti metti sul divano e non, ti levi le scarpe e non sogni altro di vedere qualcosa che ti piace? E gioco ad Assassin's Creed, gioco con la Wii con la mia fidanzata o con qualche amico, ma lo zapping è una malattia che ho debellato ormai da 10 anni. Ecco, qual è la vostra età media? Perché io sono convinto che noi facciamo ancora riferimento a un'Italia che esiste, è giusto che esista, gli auguriamo vita e salute per il maggior tempo di anni possibile, ma ormai va a un'età anagrafica che va oltre i 70 anni, che sono quelli che ancora si guardano Ballando con le Stelle, si guardano il gioco dei pacchi. Chi è che sta più davanti a un televisore? Un po' è vero, un po' no, perché Ballando con le Stelle forse è vero, ma cioè, noi abbiamo 30 anni, 30 anni. Io e la mia fidanzata abbiamo, perché 30 sai, ti dico, poi ti faccio, io conosco la generazione di mio figlio maggiore, 19 anni, che proprio la televisore non sanno nemmeno cosa sia. Se fa la benedizione stare accanto a me, io guardo il televisore, lui si guarda il suo smartphone, a meno che non siano cose che gli interessano. Ma i trentenni cosa fanno? Ma cioè, i trentenni come noi, guarda, della mia generazione, vabbè, del mio giro di amicizie, ci sono due scuole, ecco. Una che è la nostra, che non ha assolutamente né l'antenna né Sky né niente, l'altra è quella parte che guarda X Factor, che nell'oretta che ha al pomeriggio o la sera prima di cucinare si fa zapping, il famoso zapping, senza guardare niente di fatto. Bellissimo, è una sorta di trance, amo moltissimo anch'io, non guardo nulla e vedo tutto, mi faccio contaminare, ma siccome per anni l'ho guardata per lavoro. Poi io, essendo informatico, io voglio scegliere le cose che mi guardo, le notizie che mi leggo, i miei RSS, il mio Twitter, quindi lo zapping per me è vomitevole. Diciamo che, ahimè, l'oggetto dell'olocausto di questa variazione generazionale nei confronti del tempo libero davanti a uno schermo sacrificherà in maniera immancabile il vecchio televisore. Sarà uno schermo sempre bello, sempre perfetto, sempre ad alta definizione, ma attraverso cui si faranno cose. Io faccio le teleconferenze via Skype sul televisore ormai, perché è una web TV e lo uso solo perché mi piace vedere meglio le persone, ma soltanto per quello. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, sono napoletano, chiamo da Caserta. Sì, allora è casertano. No, sono napoletano verace, veramente. Ah, beh, ci tiene a distinguersi. Chiaro. Niente, volevo dire che molte persone pensano che il televisore è onnipotente, che può stravolgere le menti umane, ma penso che non è così, perché molte persone, molti italiani, il cervello in testa ce l'abbiamo. Quindi non ci facciamo plagiare da tante frottole e in particolare talk show politici che dicono un sacco di menate, un sacco di cose proprio assurde che vogliono inculcarci. Dice che proprio il modello di trasmissione dell'informazione televisiva è passato, questo grande teatrino sui divanetti che fanno finta di litigare, qualcosa appartiene a un'altra generazione, a lei non interessa. Quanti anni ha lei? Io ho 50 anni e preferisco sinceramente i programmi culturali. Sì, certo, Piero Angela, vabbè, questa è la solita menata. Sì, molto, molto di più. Sì, tutti lo dicono, poi in realtà guardano YouPorn. Annabella, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, volevo dirle, io ho spento categoricamente, ce l'ho in casa, però l'ho spento il televisore il 27 marzo del 2007. Lei quindi è all'orgoglio delle vergini della non televisione. Una vergine televisiva, sì. Dunque, allora è successo. E che fa? Allora, come impiega la sua preziosa verginità, che non guardando più la televisione? Cosa fa? Cose magnifiche. Ne dica qualcuna. Ho scoperto innanzitutto le biblioteche, le serate culturali. Sai che noia, però, da morire di pizzichi. No, neanche per idea, perché quando in piazza ti viene a parlare Pupi Avati e non è una serata buttata via, viene Vecchioni, non è una serata buttata via, ci sono dei concerti bellissimi. Questo dove si produce? A Cecina, qui è una piccola cittadina di provincia, ci sono magnifiche biblioteche con... ma la sera chiudono, le biblioteche la sera chiudono. Si va di giorno a prendere il libro, poi la sera si legge a casa. Legge un libro, legge un buon libro. I film a noleggio gratuitamente, perciò sono aggiornatissima con i libri, ci sono mille cose da fare. Quindi lei conferma però la sfiducia nella produzione televisiva. Assolutamente. Il televisore è un monitor attraverso cui poi fare altri usi personalizzati, molto chiaro. Mario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Perché si vendono meno TV? Io penso che un motivo è anche legato al fatto che diciamo è stato il rimpiazzamento dei CRT con le TV a schermo piatto, quindi prima non c'era nessuno, ora ce l'hanno tutti. Ci sono solo quelli adesso, perché sì, appunto, però il televisore a tre volumi ormai soltanto nei centri anziani, quando qualcuno glielo regala per la pietà pelosa, dice diamo qualcosa ai poveri vecchietti, si libera appunto la cantina di un vecchio televisore. Però è chiaro che diciamo, se una TV moderna non dura più come quella vecchia che durava 10 anni. Ma no, se non è vero, ci sono bei televisori che i 4, 5, 6 anni se li fanno tutti. Sì, appunto, però è chiaro che una volta rimpiazzati i vecchi CRT, le vendite non possono essere sostenute come lo erano. Diciamo, non c'è ragione di cambiare un televisore quando c'è un bello schermo piatto, lo vedi bene, in ottima definizione, l'hai ormai attaccato al muro, quindi hai fatto i buchi con gli stop, non ti va di rifarli, lasci perdere, non cambi più, aspetti. Occupandomi proprio non di televisione ma di televisori, nel senso, sì, che certo, noi di questo parliamo. Faccio il giornalista tecnico che prova le TV sulle riviste. Io lo cambierei ogni giorno se fosse per me. Però è chiaro che la gente non può farlo. E poi diciamo. Allora, fermo un attimo, Mario, la tengo come esperto, mi serviva un esperto e non ce l'avevo. Melog. Cronache meridiane. Cioè, non me l'ha detto che canto in falsetto. Il dottore ti dice se respiri bene e se non danneggi le corde vocali. Puoi cantare una scala discendente e arrivare alla nota più bassa che hai. Ci stiamo domandando a questo punto se il consumo televisivo sia ormai riservato a un genere ospiziale, anzi obitoriale addirittura, visto che gli italiani non stanno più comprando televisioni, sono diminuiti di 3 milioni i televisori venduti. Ci chiediamo perché, ma soprattutto ci chiediamo cosa fanno gli italiani quando non guardano la televisione, perché non ne vediamo il risultato concreto di queste spasmodiche attività alternative. Simone, buongiorno. Buongiorno, chiamavo perché vado un po' controcorrente, sì, nel senso che io ho 34 anni, quindi non mi ritengo da ospizio. Manco d'obitorio. Esatto, sia io che mia moglie siamo coetanei, facciamo sport e quant'altro, ma passiamo diverso tempo comunque davanti alla televisione. Quando ne abbiamo il tempo, guardo, non so, Fox Crime, guardo i polizieschi, guardo a volte anche X-Factor. Big Bang Theory, le cose fantastiche vanno in televisione. Esatto, cioè la televisione, non dico che è la mia compagna di vita, perché la mia compagna di vita è mia moglie, faccio sport. Vabbè, adesso non si allarghi troppo, tanto non vogliamo entrare nel merito. Però fa parte comunque della mia vita, nel senso che la televisione è comunque, diciamo, una che è comodo la sera avere questa sorta di strumento, esatto, che ti porta lentamente, dolcemente all'abbiocco, che tu cambi 3-4 telefilm, ti svedicchi, vedi un po' di cartoni animati, esatto, qualche cialtronata in cucina, e in quel momento improvvisamente con la televisione, ecco, la moglie si addormenta e quindi è fuori uso, grazie a Dio. Dopo un po' ti addormenti anche te, non ci sarebbe modo migliore, la gente prende psicofarmaci e noi abbiamo il televisore. Torniamo un attimo all'ascoltatore Mario, il nostro esperto acquisito. Mi spiega un attimo quanto si sia evoluta la tecnologia del televisore e quanto secondo lei il pubblico medio italiano vada dietro alle innovazioni tecnologiche? Guarda, io credo che il problema non è tanto la televisione in sé, quanto i contenuti. Ad esempio, noi abbiamo fatto il passaggio dalla definizione standard all'alta definizione con pochi contenuti in HD. Ora ci sono i contenuti in HD, specialmente da piattaforme a pagamento. Senta, mi spiega una cosa, perché non vedo la differenza fra un film visto in HD e il corrispondente Sky visto normale? O io li metto insieme vicini, non riesco a capire la differenza. Mi manca qualcosa dal punto di vista del visus? Guarda Gianluca, non per tutti la qualità video è la cosa determinante. No, ma io mi sforzo, visto Sky c'è il film, tu fa vedere sia in HD che è normale, è un televisore in HD. La televisione non mi rendo conto la differenza, mi raccolgo, sto guardando normale. Hai un televisore che riesce a elaborare bene il segnale video che gli arriva, perché comunque il pannello che vedi è in alta definizione, quindi la TV trasforma un segnale povero in un segnale buono. Però quando tu fornisci alla TV un segnale nativo in HD dovresti comunque vedere un pochino meglio. Sì, vedo un po' meglio, ma non è così la differenza che mi fa hai un buon televisore che fa quello che si chiama, ecco, ma tu mi dici giustamente, tu puoi comprarti tutti i televisori raffinati che vuoi adesso, con i nuovi semicircolari che sembra di stare a volte quelli in 4K, sì, ma se dentro ci devi vedere sempre Albano, la Carlucci e la Cuccarini, ma che ti frega? Io su questo non sono d'accordo. Spiega. Adesso chi vende televisori cerca di vendertelo curvo, perché quello piatto ce l'hai. Ma le pareti sono dritte, però cosa faccio? Cambio casa? Allora, lasciamo perdere quello curvo, parliamo di quello 4K. Sì. Se tu, se ci fossero dei contenuti da vedere in 4K, secondo me i televisori si venderebbero. Il problema è che la gente è confusa, c'è una tecnologia da comprare, ma non c'è il software da metterci dentro. Certo, è come averci un'astronave che va a pedali, è la stessa cosa. Fermiamoci, aspetta un attimo, Mario. Sì, un secondo solo, poi avrai Paolo, anche Paolo è un esperto, questa è la mattina degli esperti. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Esperto in cosa? Esperto in materiali di consumo, tra cui le TV, nel senso... Sei d'accordo con quello che dice il tuo collega, che in realtà... Io sono in completo disaccordo, tant'è che basta vedere un CRT tubo catodico di ultima generazione, gli HD prepared, sì, danno una pista agli ultimi televisori, il bianco è un bianco e non è azzurro. Vabbè, ma tu sei un maniaco, la gente normalmente non vede manco... No, la gente quando vede la TV è come se ascoltasse la radio, non sta a guardare se riesce a vedere il pelo di barba in alta definizione, in 4K, certo, del soggetto da vitali. Se io voglio vedere la TV, io vi garantisco che ci sono dei televisori in CRT, ma andate avanti con i decoder. Paolo, ti faccio riflettere su una cosa, sai cos'è il campione medio audio, quello che definisce se la televisione è buona o cattiva? È una signora ultra settantenne analfabeta del sud Italia, questo è il punto di riferimento di chi produce televisione. Infatti se ne sbatte del pelo sulla faccia. Ma figuriamoci, ha i suoi baffi che gli evitano la visione completa, figuriamoci se guarda il pelo di quelli che... è la resa che conta, ci sono televisori Philips, vabbè, non due macchine, sì, perché da tubo catodico di 30 anni che funzionano alla grande. Ma occupano un sacco di spazio, oggi nessuno può tenersi più una stufa in casa così. Sì, se c'era prima c'è anche oggi, insomma, uno perché vuol cambiare, innovare e mette il pannelletto, inutile peraltro. Vabbè, ho capito, tu sei un raffinato, sono raffinato e ha questa sorta di gusto anche della tecnologia vintage, uno steampunk televisivo. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Sì. Ciao Gianluca. Io visto che il riferimento è la signora settantenne, sono un po'. Ma è questo, l'habitat è quello, sennò i programmi non farebbero quello che sono. Ma con dignità di esistenza della signora settantenne analfabeta, ma è questo però, la televisione è costruita mediamente, la nostra visione è su questo campione, quindi possiamo anche metterla in un televisore da 20.000 euro ultra piatto, curvato e con tutte le ipervisioni, ma tanto davanti chi produce televisione immagina che c'è quella signora. Io sono un po' in controtendenza, nel senso a me la TV piace tantissimo, vado molto al cinema, vado molto fuori, però quando sono in casa è chiaro che non vedo i programmi generalisti di cui dici tu, e ho smesso anche di vedere i talk show perché mi arrabbio troppo, ma però le notizie le sento in italiano, le sento in inglese e vedo tanti film. Io ho Sky, non ho il digitale terrestre, ho soltanto la parabola, e per me il riferimento è la qualità. Non è vero che un CRT è uguale a un'alta definizione, insomma, adesso va bene portare tutto lo stesso livello, però io penso che il problema per cui si vedono meno televisori è che strutturalmente è cambiata la forma di consumo, cioè la gente non è più disponibile a buttare via le cose per provarne una nuova. No, ho capito, vediamo se ho capito bene la sintesi, aiutami, degli ultimi interventi. Esiste un pubblico raffinato che si è evoluto, che comunque si comprerà sempre il televisore, perché apprezza la qualità e soprattutto i programmi che va cercando, non se li va a cercare nel menu convenzionale, tradizionale dell'offerta generalista, si va a cercare programmi che meritano di essere visti con quella qualità, e per gli altri è tutto fa brodo, tanto si mettono lì, per loro è un piccolo anticipatore della catalessi, è qualcosa del genere? Sono d'accordo. Grazie Rino, sentiamo Rino cosa deve dire. Sì, pronto. Sì. Buongiorno. Ma io la televisione l'ho abbandonata ormai penso da 10 anni, ascolto solo vinili la sera, piuttosto. Vabbè, lei è un maniaco del vintage, che ti scordi? Sì, sono un feticista del vinile, quindi. Perché non si prende un televisore a valvole, quelli lì col. Sì, per me va bene lo stesso. Anzi, andrà anche meglio, lo vedrà nel calore del bianco e nero tremolante. Non neanche le sigle che dicono CHT, CRT. Vabbè, lei è uno che ricerca la poesia della tecnologia di una volta. Molto di più da un vinile vecchio impolverato che da alcuni programmi inguardabili. L'importante è ricevere, poi ognuno sceglie secondo i suoi gusti ciò che gli dà più piacevolezza nella ricezione. Vabbè, mi sembra che siamo arrivati alla fine di questa. No, c'è ancora un minuto, perché allora c'è nel 56, ho tratto informazioni sbagliate. Vabbè, in questo minuto sentiamo allora Rino, l'abbiamo sentito, c'è rimasto Mario l'esperto, visto che stamattina abbiamo dato questa palma. Faccia la sua previsione per il futuro. Come sarà, diciamo, l'angolo destinato alla televisione da qui a 10 anni, secondo lei? Sapessi diventerei ricco. Io invece voglio dire un'altra cosa, che diciamo uno strumento che ha cambiato le mie abitudini e penso anche quelle di altri è il set-top box con il registratore, cioè io non devo più preoccuparmi di stare davanti alla TV all'orario che mi dicono. Ah certo, lei registra i programmi, registra le serie, certo. Quando mi pare, questo mi lascia tempo sia per godermi di più la TV sia per avere spazio per fare. No, uno si può anche alzare, andarsi a fare un caffè, andare a fare la pipì, intanto il programma si registra e poi ritornare al punto di partenza. Sì, questo ha cambiato, ha scompaginato tutto, ha reso difficile il lavoro di questi ultimi soloni che sono quelli che pensano al palinsesto. Lo pensano soltanto per la baffuta che guarda, ma non pensa. A domani.